Oh, thank you, sir. Sì, è. Ciao, chi sei, Marco? Sì, Gianfra, pensa, eravamo in campagna, abbiamo mangiato lì, poi siamo fatti una bella chiacchierata, insomma, siamo divertiti, poi abbiamo deciso di tornare, perché sennò poi fino a notte non volevamo rimanere. Avevo il baracchino acceso poco fa e mi stavo addormentando seduto sulla poltrona. E così anche il Ferragosto se n'è andato. Allora ho dato un'occhiata con l'apparecchio. Quello famoso, no? Con quello smartphone dentro. È un tazzo che peraltro l'hardware dell'equivalente allo smartphone che c'è dentro è di uno smartphone risalente al 2013, quindi un po' datato. Se c'è un misero 1-2 giga di processore, dual core, 512 di RAM solo, cioè per farlo pagare, perché tra balle tutto, spese di importazione, sdoganamento, in Italia costerà sui 300 euro secondo me, se arriverà. A quel punto metteteli un hardware più aggiornato, in modo che degli aggiornamenti durante gli anni possa essere un po' più, e tanto, se no poi le applicazioni diventano pesanti e non te le fa nemmeno più fare. Buonasera, ben sentito. Sì, buonasera, infatti si sente che c'hai la voce un po' di sonno. No, ma non è un apparecchio da mettere applicazioni, diciamo, cioè quelle sue fisse, quello deve fare, quello fa, capito? Ma l'avevo già detto ieri, dal punto di vista pratico è preferibile uno smartphone, perché innanzitutto c'è le sempre appresso, quindi non devi portare roba in più, e poi la funzionalità è identica, non è il cambia niente, quindi al massimo quello vendo qualche antenna esterna a posto di essere una categoria, sarà una categoria in più dal punto di vista della portata, diciamo, del guadagno in antenna, perché i telefonini hanno un'antenna interna e quindi è più limitata, ma insomma quello non giustifica un prezzo così alto, ecco. Comunque installatela l'applicazione, così ci possiamo sentire anche lì a fare qualche esperimento. Allora, sì, ho visto che loro, almeno lì, quel video che ho visto era di un ragazzo in particolare, no, lo spiegava in tre video fatto per questo apparato, quell'apparato lì. Faceva capire che usavano sia Zello, sia questa IRS o roba del genere, o IRR, e forse anche un Ecolink come applicazione, tipo l'Ecolink italiano, magari la stessa. Così, comunque gli ho mandato un messaggio, nonostante sia intrigante, no, l'apparecchietto in sé, gli ho mandato un messaggio in inglese col traduttore e gli ho scritto: non credevo che saremmo arrivati a questo, fare attività radio con un cellulare, con un cellulare mascherato, travestito da rice trasmettitore, e per giunta con un hardware del 2013. Poi ho aggiunto appunto, non ha il 4G, il 5G sta arrivando, cioè se vogliamo anche solo 3G, diciamo commisurato all'anno dell'hardware come prestazioni. E poi vabbè, per non essere troppo polemico, perché è intrigante l'apparato scritto, comunque dice: l'apparecchio è interessante, meglio se con un hardware più aggiornato e con un display più grande. Beh, perché il display di quel modello, ho visto ci sono anche altri modelli di altre marche con display molto più grande, ma con un display da 2,5 pollici di diagonale. Caspita, quando mette la tastiera, caspita, un dito ti copre almeno 4 tasti, è un po' difficile. però funziona, vedo che funziona. Poi gli ho scritto: scusami per il mio cattivo inglese, saluti. Sì, allora tieni presente che ci sono da fare delle considerazioni su molti tipi di apparati. Non si sceglie apparati particolari, diciamo, non si sceglie mai l'ultimo processore, l'ultimo guida di processore. Si cercano sempre processori di altissima affidabilità, perché devono fare quello e basta. Quindi il fatto che sia così, come dire, del 2003 non significa che comunque sia una cosa da buttare. Cioè, quel processore è utilizzato per fare uno scopo ben preciso, per consumare anche un determinato tipo di energia, quindi ci sono tante cose da considerare, capito? Non è un discorso così semplice. Poi le applicazioni, cioè, sono tante. Sono figurati, tutti i miei apparati hanno praticamente una speciale presa che si chiama DB26 mini, cioè addirittura 26 contatti, una cosa pazzesca. Praticamente quando tu colleghi questa, chiamiamola specie di seriale, dai, al computer, sul computer ti appare una scheda di rete, quindi sono già apparati che immediatamente possono essere collegati in rete. E quindi non c'è niente da fare praticamente dal punto di vista software, cioè o meglio dal punto di vista di maneggiare. Tocco del casletto, lo mettiamo al computer e lui va. Il problema grosso è trovare il software, perché il software che ti vendono costa molto, ma molto, molto di più degli apparati. Stiamo parlando di 2.000-3.000 euro per farli comunicare uno con l'altro. Ed è molto veloce perché è una comunicazione diretta, mentre quella di Zero e quella Ecolink eccetera eccetera si basano tutti su dei server che ormai sono anche gratis, quindi non danno un servizio proprio così, capito? Però diciamo, tutto sommato è gratis, la voce la senti dopo un secondo, ma ci sta, dai. Eia. Ma comunque, a quanto ho capito, questa trasmissione voce praticamente tutto va bene. Ho visto che hanno interfacciati anche di Star, reali radio di Star, DNR, no? Ma quello che viaggia su internet praticamente è un VoIP, Voice over IP, giusto? Come può essere, no, WhatsApp, che ne so, Zello. Sì, allora, in termine tecnico si chiamerebbe VoIP, Radio Over IP, quindi è una trasmissione diretta, VoIP, fatta via radio, e quindi ci hanno tolto la voce e hanno messo l'AR, VoIP, e ci sono appositi apparati per interfacciarsi, ma costano veramente cari, perché gli stessi apparati poi, cioè, non sono altri degli apparati di rete, ti permettono la condivisione dalla radio con sistemi di centralini, insomma, praticamente dall'apparato puoi telefonare in modo del povero. Tanto è vero che ad esempio tutti i miei hanno anche la rubrica telefonica, oltre ad avere i normali contatti, i normali canali. Tutto lì. Se tu pensi al Tetra, ecco, il Tetra è il tipico esempio di utilizzo di quella tecnologia per comunicare senza aver per forza fonti radio sulle montagne, perché il Tetra lavora sempre su cellule telefoniche. E tu pensa che anche la polizia, non so se li hanno visti, hanno proprio i cellulari che si collegano al Tetra, lo fa anche il DMR, però di lì è proprio, sono le applicazioni che comunicano con la radio. Eia. Comunque l'ho visto bene nel video l'apparecchietto, ho visto anche dietro a due micro, chiamiamoli PL, dei micro attacchini, dove lui ha attaccato anche un cavettino con una specie di mini antenna, praticamente era un quadratino nero, che sembra di quelle antenne da vetro per la macchina, e quindi volendo uno ci può mettere forse antenne anche più adatte in macchina, magari anche un'antenna a tettuccio, purché sulle frequenze adatte, sempre che le vendano. Ma d'altronde le antennine per reti cellulari magari non so dove, ma si troveranno. Comunque l'apparecchio è intrigante, poi gli ho detto anche a mamma, altro che baracchini, che stare a zuffarsi col condominio per piazzare antenne, passare il cavo, misurare stazionarie. Ho detto, tu ti metti questo sul comodino, io sono dall'altra parte del mondo, tu premi e parli con me. Ciao, pelle, quanto costa subito partendo in quattro? Certo, non sulle reti riservate ai radioamatori, ci mancherebbe, ma su Zello. Peraltro l'ho scaricato già e l'ho installato, ho visto che ci sono, sì, si possono cercare stanze e persone da tutto il mondo, cosa che prima non riuscivo a fare, non so perché, ho sbagliato io. Praticamente cliccavo io anni fa solo, cerca le reti più trendy, cioè i canali più trendy, ma mi apparivano solo italiani, invece col tasto cerca trova Texas Police Department, naturalmente poi ho visto che ci sono limitazioni a più livelli, tipo che per entrare nel canale devi mettere la password, oppure che puoi ascoltare ma non parlare, oppure che puoi entrare solo se chiedi permesso ai moderatori, oppure solo canali in broadcasting, non mi ricordo come si chiama, cioè i moderatori parlano solo i moderatori e tu solo ascolti, oppure un mix di queste cose, insomma molto configurabile. Comunque per quell'apparecchietto ho visto, sì, che ha un Android 6 ottimizzato poi proprio per quell'uso, ottimizzato a tutti gli effetti per quell'uso. Comunque il tipo ha aperto anche video e il lettore, non so se fosse YouTube, ha fatto sentire musica, c'ha delle funzioni base, ce le ha bene o male. Magari anche un hardware di un medio gamma, cioè magari per il prezzo finale a cui esce in Italia potevano metterci un 3032, 3G a 32, vabbè, comunque presumo che poi si espanderanno, si ne faranno sempre di più, anche aggiornati. Speriamo solo che il mondo dei radioattori non finisca solo a quello, alla fine. Perché sai, l'uno tira l'altro, no? Cominciano a aumentare le utenti su questi ROIP, la gente alla fine i nuovi entrati si buiano, ne scoppia tantenne, ma speriamo di no. Poi ne ho visto di altre marche, non ci ho fatto caso, adesso la mia attenzione era incentrata su quel modello. E c'era ben tre video, spiegato bene, per quanto riesca, ho messo i sottotitoli perché leggendo magari riesco a capirlo meglio, se non che non l'ha il parlato, capito? Una cosa interessante. Zello l'ho scaricato e non so se tu ce l'abbia, qualche prova si può fare. Mi chiedevo se esistesse una, ma pare di aver capito di no, un canale di Sassari, tipo canale 23 Sassari, canale CB Sassari, no? Ho visto qualche gruppo di radioamatori, proprio sassaresi, ho visto, mi pare di aver visto nella foto, c'era la foto del gruppo, forse Giuseppe Malboro, no? Che il nome da baracchinista. E altri un po' meno conosciuti, Giovanni Mistero ho visto anche, non mi ricordo il nome del gruppo perché c'era una sigla, capito? Bel programmino comunque, certo, di bello che è tipo walkie talkie, perché con WhatsApp, cioè tu registri il messaggio, poi lo invii, quello se lo deve leggere, ti risponde, invece lì è, trasmetti e quello risponde. Certo c'è una latenza, me l'avevi spiegato anche ieri, giustamente lì. Comunque se hai una connessione buona, anche con la 3G va di lusso, ce n'è d'avanzo, dice, ho visto che quell'apparecchietto anche con un 2G sembrato di capire che lavora comunque bene, alla fine non c'è un volume di dati tale da giustificare 4G o 5G di linee. Sto aprendo una preparazione forte. Allora, hai fatto un sacco di domande e ti do un pochino di risposte. Allora, quelle antennine di cui parli, quelle quadrate, ce l'ho anch'io sia in macchina ne ho due, quindi figurati. In base ce ne sono altre due, non sono altro che le antenne del GPS, lavorano a 1500 spicciolo di GPS dovrebbe essere, se non ricordo male, 1,5 giga. Sono antenne GPS, hanno l'SMA dietro, no? Quel connettorino piccolo. Le colleghi ai lì praticamente ti dà la posizione, tu vedi la posizione sugli apparati di chi sta trasmettendo e tutte quelle belle cose lì. Poi tieni presente che Zello in realtà ce ne sono due versioni, una versione che è quella gratuita e funziona come funziona, hai visto, no? Ce ne sono tanti. Io sto utilizzando ad esempio un vecchio telefono che è senza SIM, perché tanto è collegato sulla rete qua Wi-Fi, e ogni tanto ascolto le comunicazioni della polizia americana che lo usano. C'è anche uno scanner molto interessante che sta sempre girando di sento in continuazione, voi ci sentono molto bene, devo dire, che sa che l'attenza c'è, ma sentono bene. E poi c'è anche un'altra versione che però di lì è tutto chiuso, diciamo, a pagamento. Ho guardato i prezzi e sono abbastanza cari, quando prezzo d'apparato tipo concessione, ogni concessione costa un tot, sono cifre altine, però sono per servizi, si chiama Zello Work, Zello per lavoro in pratica, e funziona così. Quindi deve essere molto, molto più efficiente, con una latenza molto, molto minore, no? Dato che si deve usare per lavoro. Ci sono anche i vigili del fuoco, i carabinieri, insomma c'è un po' di tutto. Se guardi bene, ti fa le ricerche, qualunque parola metti, te la trova, c'è un canale ad hoc. E poi, per quello che hai detto riguardo al fatto che poi tutti andranno a rete, eccetera, non sarà più radio, eccetera, eccetera, tieni presente che quell'applicazione può essere molto utile proprio per far usare la radio, perché da una parte ci può essere quell'apparecchio, ma siccome tutti noi sappiamo, soprattutto in Sardegna, in molte zone, il cellulare non arriva, e anche se arriva non arriva neanche il 2G, su certe zone, soprattutto montagnose e così, eccetera. Allora un'integrazione radio è pressoché indispensabile, e per quello può dare un grosso aiuto. Tutto lì. Sì, ho visto anche portatili ibridi tipo UHF più quel sistema, oppure VHF più quel sistema. Ricordo di non li ho guardati bene, magari ne ho visto solo uno di sfuggita, aveva un bel display grande, e forse la marca era Retrievis, non so se sia sempre roba cinese. No, dico, è un ipotetico futuro che magari, insomma, io già mi ricordo quando si provavano queste cose, no? Tempo fa, un paio d'anni fa, forse tre. Lo stesso, non so se Fabrizio chiede, ho provato col cellulare a... andava praticamente via radio su un ponte col cellulare. Questi, non so si chiamino Ecolink, magari era lo stesso Roy, quello. Mi ricordo una battuta di Walter, aveva detto, questa non è radio, non è radio. Dice, usi la radio vera o usi un computer? Avevo sentito questa battuta, poi magari anche lui è finito in digitale a usare questi sistemi, non lo so. Sì, la Retrix, quella marca lì la conosco perché ho comprato un portatile, e dopo un mese praticamente me ne sono sbarazzato, perché la roba funzionare roba, funzionava, funzionava, però era robaccia, perlomeno per quello che uso io è robaccia. Poi sai, l'integrazione tra rete internet, chiamiamola così, e apparati oramai è un fatto assodato, perché ti permette in maniera più economica di collegare varie strutture a distanza. Ad esempio anche i ponti radio che vedi, quelli IMR, quelli lì sono collegati tramite delle antennine che lavorano anche, oramai sono quasi tutte su 5 giga, sono delle piccole parabole che non, tra l'altro sono degli apparati di link che non costano neanche molto, fanno da un punto all'altro, fanno soccorso sotto una galleria eccetera, chi comanda la radio. Che mi siano un po' sfuggite, forse avevo già visto qualcosa da figure, da foto, ma non mi era balzato alla mente che potessero essere o così o portatili ibridi, sai, quel cerchietto che premi per WhatsApp, no? Va bene, tante innovazioni, sì, ho visto un po' di tutto, carabinieri, associazioni carabinieri, radioamatori, gruppi CP, sesso selvaggio, canali del genere, ma proprio da tutto il mondo, una cosa, vabbè, molti anche vuoti, cioè con zero utenti, magari registrati ma non presenti al momento, di tutto e di più c'era. Comunque se puoi mandare anche foto, non so cos'altro possa mandare, perché non ho provato con nessuno, non ho avuto modo di provare con nessuno, anche perché su molti canali dovevi chiedere l'autorizzazione e cose, sai, c'era già una discussione in corso. Ho provato solo l'eco, il segnale di test, quello che ti ripete quello che dici. C'è quella funzione che io ho tolto, perché poi mi hanno detto di trasmetti e sta sempre con questo ecco. Infatti volevo dire, sì, io devo solo scegliere quale provare, perché c'ho anche la versione che ovviamente è collegata in radio, quindi se parli ti manderebbe in onda e ti potresti sentire tipo su qualunque frequenza, perché sono interattivi, capito, gli apparati ci sono qua. Ma infatti io preferirei usare solo Zello, non vorrei finire ritrasmesso su quale banda amatoriale o cosa. Ho visto anche canali dove c'era scritto PMR 486, poi una sigla, magari sono collegati a Parrot, a ripetitori PMR, non sai mai dove vai a finire lì. Ma vabbè, comunque un discorso interessante, piccolino, bello, anche corto dietro come profondità. In macchina sarebbe una bella, può usare il wifi se sia a casa, se è il wifi, se no ci metti la sim e viaggi anche lì. Sì, poi per la polizia americana ho visto un video di sfuggita dove si caricava questa applicazione che non aveva, tipo broadcasting, non so, forse sto sbagliando io. E si dio tutta la polizia americana, naturalmente io il parlato non lo massico tanto, quindi sarebbe bello sarebbe sentire qualcosa in tetra, ma non credo che sia raggiungibile quello off limits. No, il tetra, cioè per essere chiari, c'è un tetra pubblico, è un tetra ad uso polizia, Rai, tanto è vero che si chiama Tetrapol, che è una variante, la variante del Tetrapol è quella che è fortemente criptata, capito? Perché che poi solo perché è digitale non vuol dire che non sia sempre accettabile. Anche la televisione digitale è pure una cosa tutti. Si tratta solo di, in un caso sia criptata, di sapere le chiavi e di poter entrare. Poi tieni presente che si possono cambiare un'aria anche le chiavi, quindi anche se c'era una volta, poi dopo un paio di minuti la cambia, perché sono contrassegnate da particolari tipi di cifratura. Poi quando accendi l'apparecchio, perlomeno quelli professionali, se sono on-air, in accesso on-air praticamente si appare la posizione immediatamente appena la radio è accesa, lo pianto di effetto mette posizione nominativo e quindi funziona così. Ok, sto predisponendo un altro account per chiamarti. Naturalmente devo essere online con te, perché è uscito dalla... poi presumo anche che gli algoritmi di cifratura siano pesanti, no? Qual è l'algoritmo migliore attualmente? Vabbè, io conosco tipo AES, Advanced Encryption Standard, non so se è il migliore, una volta c'era Blowfish, non mi ricordo fino a quanti bit. Poi bisogna vedere loro quale usano, sanno, oppure se sono algoritmi proprietari, roba particolare, ma non so, non saprei. Guarda, gli apparati Silvetera, siamo Motorola, seppure eccetera, utilizzano standard l'ARC 4 che ha 40 bit circa. L'Itera poi in più c'ha anche il cambio automatico dinamico, quindi la chiave viene rotata in continuazione e non è sempre la stessa, quindi dà già un grado di sicurezza per quello che riguarda la radio più che sufficiente, tanto anche se la decifri il giorno dopo l'informazione è vecchia, quindi non serve più a niente. Se poi uno vuole raggiungere dei livelli opzionali, ti dico anche il prezzo, 150 euro a licenza, quindi ad apparato, sempre sui Motorola, Itera e compagnia cantante, c'è l'AES 256, adesso mi scappa, comunque l'AES, che attualmente è quello che si usa per le transazioni finanziarie, quindi è praticamente indecifrabile ora come ora. Ci vorrebbero anni, secoli forse, perché è lo stesso che utilizzi, che utilizzano la banca sui conti correnti e su tutto, quindi però penso che ce l'abbiamo forse solo i militari, anche perché poi i militari hanno anche degli algoritmi ad hoc fatti proprio per loro, ancora più anonimi. Tutto lì. Finita la pacchia, finita l'età dell'oro dell'ascolto, di quando era tutto in chiaro. Mamma mia. Va bene, allora io adesso prendo lo smartphone, poi ti do il mio indicativo, il tuo, insomma, riusciremo a trovarci, sì, ma dobbiamo creare una stanza apposita, sì, giusto? O posso contattare il singolo utente? Come funziona? No, non c'è bisogno, puoi contattare il singolo utente. Guarda le cose, non mi viene l'idea per un nominativo. Non mi viene l'idea per un nominativo? Non so cosa mettere, un nome che sia univoco. Cosa ci posso mettere? Io ho preso la prima fesseria mi è venuta in mente. L'iniziale del nome proprio, Mike, iniziale del cognome, Papa, io sono nato nel 71, invertito 17, Mike, Papa 17, tutto attaccato. Ah, ho capito. No, io ce la metto una, tra poco te lo dico, un attimino che metto le credenziali. Anche per la password, alla fine sul momento non sai mai cosa inventarsi. O te lo studi prima, nominativo. Ecco qua, allora, adesso avvio il programma comunque. Cello. Vediamo, eccolo qua. Ho dato un'orecchiata anche al canale cosiddetto Network Radios, proprio quelle radio lì. C'erano centinaia di utenti attivi, almeno un centinaio attivi, ma penso fosse roba dell'Inghilterra, anche l'autore del video era dall'Inghilterra, tutto in inglese, infine. Il parlato è un problema per me, è un problema, poi uno può avere uno slang, un accento, un dialetto anche, perché no? D'altronde se parliamo sardo sui canali italiani, chi ci capisce? Come sa Sarese, non tutti. Infatti, vediamo un po'. Esatto. Dovrebbe connettere. Vediamo un po' come va. Annota Mike Papa, tutto attaccato, ho messo la M maiuscola, la P maiuscola e poi il 17 attaccato. Non so se col tasto cerca influiscano le maiuscole e le minuscole, quello non lo so. Non so neanche io quello. Allora, proprio qua, anche il piccolo cavo è caduto. Allora. Che tra poco mi dovrei dettare com'era, anzi ripetiamo come lo scrivo. Mike Papa, Mike maiuscolo M, Papa 17, tutto attaccato. Mike Papa 17. Ma tu hai detto perché piccolo? Ma stai usando lo stesso un apparatino del genere? Vabbè, io sono con lo smartphone, quindi 5 pollici abbondanti, ed è anche vecchio questo. Questo è uno smartphone del 2014, infatti certe applicazioni non girano, tipo l'applicazione di Homobile, no? La connessione che ho adesso, non, l'applicazione non, è obsoleto, sono fermo al Android 4.2 o 4.3. Non so, io c'ho, qua sto usando Windows e poi c'ho la 8 come applicazione. Attualmente l'ho fatto su un micro PC, quei PC piccoli piccoli, ma che funzionano veramente bene. Una specie di tablet, però è un po' soprammobile. E con la tastierina, con la tastierina attaccata? No, è un touchscreen. Ah no, perché ho visto anche tablet convertibili con la tastiera, proprio con i tasti fisici. Ecco qua. Ho cercato anche CB, ma non ho trovato niente, ma forse Zello, francamente noi nel gruppo CB usando WhatsApp, forse Zello non viene neanche più usato. Una volta l'ho tentato, ma. Lo so, ma quello che è importante è la, come si dice, la, il fatto che interconnesso, capito? Può interconnettere. Aspetta un attimino che vedo un po' se si trova. Eia, già sono qua, vedo lo stato è verde, disponibile, eccetera. Volume a manetta, vediamo. Sì. Peraltro ho notato che con quell'apparato in questione, quando parlavano su questa IRS, IRC, era, volume era più moderato, quando passavano in Zello per fare la proporzione c'era un volume sparatissimo. È probabile, ma solo così breve il nominativo, MP17? No, proprio scritto Mike Papa 17, non ho messo MP, Mike Papa 17. Mike Papa 17, io sono connesso, c'è scritto di lungo, no, MP17, e vedo che non, qua non succede niente. No, infatti non si trova, quindi sono solo quattro lettere, possibile? No, faccio lo spelling di tutto il coso, Mike, India, Kilo, Ecco, P cosa era? Non mi ricordo la P. Papa, giusto? Come l'ho scritto si legge? Papa, Alfa, 1-7. Ah, quindi è Mike Papa, tutto attaccato, 17. Sì, non l'ho messo MP17, no, sarebbe troppo corto, non lo so. Eia. Quindi io credo che ci fosse una stanza da creare per parlare, ma quanto ho capito puoi fare anche il coso diretto, meglio così. Perché mi sta chiedendo la preservazione? Sei tu? Diciamo c'è test scritto nella seconda parte? Sì, è fatta apposta per comunicare con te questo. Sì, ok, adesso è disponibile, però ti devo parlare collegandoti in ecco, disponibile. Dimmi se mi senti, però stai facendo la radio anche, perché questo è collegato anche in radio. Eia. Se vuoi, premi la portante che provo a parlare io. Naturalmente non vorrei essere ritrasmesso in mani amatoriali, sì. L'importante è che tu lo faccia da radio amatoriale, eh? Però che non venga trasmesso chissà dove io. Ti volevo chiedere, mi puoi mandare il 27 premendo la portante per sentire come esco io? Cino, hola. C'è una specie di quasi indicatore di segnale. Se un poco mi compare, ti dice se la velocità della linea telefonica è buona, qualcosa del genere. Allora mi dice qualità di connessione eccellente. Sì, esatto, è quello che c'è, quella specie di segnale tipico dei telefonini o dei cose digitali, io ti posso dire che è ignoto. Ci sto premendo, no? Adesso voglio provare invece però con un telefono per vedere un po' come funziona, solo che mi devo disconnettere e poi ti richiamo dall'altro. D'accordo, fai pure, io già sono qua. Vabbè, interessante, certo, caspita. Poi con la forma di radio, che sai, qua sfiori appena il touchscreen, cominciano magari partire, si può silenziare qualcosa. Cioè col PTT è intrigante. Naturalmente. Come ho detto a quel ragazzo, che ho un'idea di radio piuttosto conservatrice io, ma vabbè, peraltro sono anche solo cibine, meno radioattore. Vabbè, cosa c'entra? Quello lo facciamo un po' tutti, mi sta muovendo, non so se mi senti, perché devo entrare con un altro telefono. Vediamo se si accende, però insomma sono tecnologie che si possono usare, se no la radio rimane sempre la stessa, inamovibile come una roccia, hanno ancora la radio a galena. Sì, stavo anche cercando di capire, aspetta che chiudo qua, vedevo sotto il tuo nome un simbolo di macchina fotografica, ho premuto e si è attivata la fotocamera. Volevo capire come mandare un file, tipo una foto simbolica, tanto per provare se funziona. Poi non so nulla di questo Zello, ormai non so se puoi mandare foto, documenti o cos'altro. Vabbè, poi me lo studio bene, l'importante è trovare qualcuno con cui provare, perché qua CB e si aspetti che installino qualcosa a provarla di queste cose elettroniche. Caspita, preparato su questa, su questo tipo di cose sei tu, e boh. Sai, un po' l'età, un po'... capito, non trovo nessuno con cui fare prove, tipo così, Zello e company. Ma il problema non è solo quello di non trovare nessuno, è proprio che non c'è nessuno che riguarda. Allora, sto guardando le altre funzioni, ho premuto quella freccina, se c'è in alto a sinistra, non troppo in alto, e sto guardando send location to Argo Test. In teoria potrei mandare, non so se location intende tipo col GPS, la posizione fisica, poi c'è. Vabbè, altre fesserie ci sono. Quando si attivo poi facciamo una prova. Sì, infatti tieni presente che comunque c'è una comunicazione, come si dice, a due è questa, se la vuoi fare a tre o quattro, cioè la devi fare un canale per forza. Sì, per formare una ruota, ho visto molte, vabbè, di radiatori, di CP anche, ognuno parla a turno naturalmente, però qua non vedo, non so come mandare, perché se premo, allora premo il fatto foto, e mi compare la fotocamera, mi si attiva, però se uno volesse accedere alla galleria, vediamo, qua mi permette di invertire la fotocamera e attivare la frontale, e ci siamo. Allora, bene, questo lo tolgo. A sinistra c'è il flash attivabile e non attivabile. In alto cosa vedo? Eccola qua, galleria. Quando ho la fotocamera attiva, in alto a destra, c'è una specie di iconetta con tipo montagna, non so, e vedo galleria, gestore file, Google Plus e Drive, che non uso gli ultimi due, galleria però è fruibile, buono. Sì, cioè, guarda, è una semplicità disarmante da fare la foto, devi un attimo che sto facendo. Con l'altro coso, così possiamo anche mandare la chiamata. Accendi, aspetta che c'è, fatto un errore. Scappa, poi con un altro tastino ho visto, con un altro tastino, quello del messaggino, ho visto che mi pare che sia lo storico dei messaggi. Oh, io non sapendo, Gianfranco, non sapendo cosa mettere come foto, mi è venuto in mente lo stemma del comune di Sassari, ma si può cambiare in ogni momento, vedo. Magari ho comprato la copia. Può darci, e chi lo sa, se no, se metto una foto mia ti spaventi, meglio che non la vedi. Certo, non sono un bel vedere, quindi preferisco non mettere foto personali. Infatti, ma adesso non sei connesso, confermi? No, qua è verde qua, sono connesso, però... Allora mi è calata, allora qualità di connessione buona, ritardo diretto 326 millisecondi, guarda che provo a parlare, guarda eccolo, ti vuoi sentire? Parla un po'. prova un po'. Arriva tra... Ecco, ecco, ecco, sì. Adesso è perfetta la voce, eh? Adesso è perfetta. Oh, vai via. Aspetta, che ho difficoltà a trovare... Mannaggia, cos'è successo qua? Sì. Non so tornare indietro, ma perché stai parlando qua? Hai ricevuto la foto? Sì, sì, sì. Ma vedo che oltre al vice comandante c'è un ulteriore collega. Sì, quello è un altro assistente di rango inferiore. Vedo che anche tu hai la stessa passione mia di gatti. Sei, vediamo cosa ti posso mandare io, che non sia scabroso, aspetta. Sai quanto ho fatto un mega ripulisti della scheda micro SD? Tutto, c'avevo mega giga di video, di foto, ho messo tutto su hard disk. Più che altro le foto personali, video fatti personali, non tanto scaricati. Poi vabbè, di WhatsApp c'avevo ciarpame, tolto tutto. Aspetta che ne prendo una. Ah, quindi ho visto un'iconetta rossa con scritto 1. Ho cliccato, mi ha aperto lo storico, ho visto una foto delle 19.44. Sì, sì, funziona. Ma domanda, a parte le foto, puoi mandare documenti tipo PDF o altro? Sì, puoi mandare SMS. PDF non lo so. Aspetta. Vediamo un po' cosa... Vabbè, il PDF lo puoi anche fotografare, mandare una foto. Su questo non mi trovo, però non lo so. Allora, posso mandare la posizione. No, poi anche qua puoi aggiungere qualche partecipante, perché io ce l'ho in inglese. Sì. Poi cosa c'è? Mi ha mandato un messaggio, vediamo un po'. Aspetta. Non so, vediamo cosa si sta. Sì, c'è il tuo apparato. Allora, aspetta che qua lo posso aprire dallo storico, vediamo. Allora, quello è il 3009 omologato a tutti gli effetti. Proprio 4 watt, 12 SB, 40 canali, col frequenzimetro dedicato. Una volta i superstar non avevano quella presa dietro, questa è una presa a 6 poli, disposti in orizzontale, l'attacchi e va al cuore dell'apparato. Comunque funziona, vedo, dai, lo puoi anche ingrandire al doppio clic, non è proprio a fuoco la foto, forse anche mozza, mi pare anche zozzo l'apparato, vabbè. Comunque arriva, dai. Per testare un documento, mannaggia, ci vorrebbe un PDF piccolo, io c'ho il volantino di Lidl che inizia domani, se vuoi quello, sto lavando. No, anche perché non l'ho visto il coso dei documenti, secondo me l'ho qua, su Android non l'ho visto, non so se c'è su Windows, ma non è una cosa necessaria quella. Guarda, se io anziché aprire la galleria apro il gestione file, presumo che mi faccia mandare altri... Allora, Adobe Acrobat, offerte, volantino Lido, offerte dal 13 al 19 agosto. Oggi cosa è? Beh, sarà 12, no? Ho perso la cognizione del tempo. Okay. No, oggi è mercoledì qui. Ah no, giusto, che non è domenica oggi. Okay. Proviamo, dai. Magari sarà un po' grande, ma... Ecco, sai cosa mi rompe a me? No? Ok, ma non vedo notifiche di invio, non vedo niente qua, boh. No, forse non lo mandano, non lo so. La funzione non l'ho sperimentata perché non mi interessa poi mandare sms, messaggi e così via, avvisi, notifiche. Quindi non so se anche in quella lì ci sono i documenti. Niente, cosa ti mi posso mandare? Ti mando una foto, poi ci fa 20, perché se la facciamo o meno, perché non ci sta nella foto, è troppo grande. Di un po' di apparati, per darti l'idea solo di portarti, di cosa c'è. Perché no? Però caspita, aprendo il file manager mi aspettavo, a meno che, cioè non credo che possa inviare solo foto, eppure qua sai l'icona e della foto. Proviamo. No, l'ho già fatto. Mamma mia, che casinista che sono. Vai, vai, maniaco. Mia Stefano Principe, re di vivo, ciao. Buonasera, maniaco. Si diceva, una volta eri più affettuoso, mi chiamavi puttanaro. Sì, questa volta sono più ostile. Si vede che non mi ami più. Ah no, ti ho tradito. Tico Falcone. Ok, buonasera. Mi ricordo la rima che si faceva tempo addietro. Ah, cosa c'è? Naso Michebone. Quei tempi. Cuca appurato, niente. Allora, stiamo provando Zello. Siccome l'ho rimesso dopo anni, qualcosa è cambiato. Allora, poi ho scoperto se queste radio network radio. Sì, sì, eccola. Se network radio, che praticamente sono smartphone mascherati da tricche trasmettitori. Mamma mia, mamma di turchi. Saranno belli, ma io sono per il tradizionale, a parte che poi lo smartphone con la cosa, cioè, vabbè, chi piace. A chi piace, un po' macchinoso come sistema. Io vedo un'infinità di portatili. Aspetta. Allora adesso parlo al baracchino perché ho la foto aperta, non posso premere. Diciamo che come mossa o sfocata, allora, comunque mi pare lei di vedere già, Itera. Riesci a vedere, Itera, tutta Itera. Questo è illegibile, non lo so. Un V3R mi pare di vedere, sì, con un antenino e quello micro. Poi c'hai i portatili Intel che c'hai pure. Eia, quello bello era peraltro, quello display grande, poi sotto mezzo veicolare, due microfoni con tasto PTT mezzo rosso. Scommetto che per quanto grande angolare l'obiettivo, Gianfranco, non riusciresti a mandarmi tutta la stazione. Mi senti se? Eia, bello però. Certo non è come WhatsApp, poi ti voglio dire una cosa a proposito di WhatsApp e company. Allora, qua, vabbè, non sto parlando, Sì, non vedo altre alternative per inviare documenti. Qua, niente, send location. Stato, opzione, rispondi all'ultimo messaggio, disconnetti e ti dici no. Non vedo alternative. Oh, comunque qua è mortorio, vedo che non è entrato, sono le 8 quasi, 8 me lo cico, non sei, non è entrato nessuno. No, io sono andato in campagna, abbiamo mangiato, siamo stati due orette a ceramizzare, poi siamo entrati perché non volevo stare lì buttato tutta la sera, caspita. Boh, vi saluto che c'ho gente. Ehi, a te, scusa che stiamo parlando lì, anche da quella parte, dai. Ciao Ste, alle prossime. Ok, ciao Marco, ciao Gianfra, se mi ascolti, saluto. È arrivata, un attimino, che aumento la luminosità. Di no, ma mi fa perché sono lontano da... Vabbè, aspetta, vedo, ho ritrovato Bellico, vedo. Sei caduto, sei sparito, di nuovo. Sì, sono ripassato qua, cosa mi sento? Cioè, il problema di qua è che ci sono proprio questi bottoni per evitare il QRM micidiale che si genera di propagazione, non segnali forti, capito? E allora si può fare qualcosa, ma sempre parlando in FM, le altre davvero un po' dura, causa sempre rumori. Eia. Beh, bene, comunque caspita, da come me l'avevi descritto, credo potessi fare cose, a parte le foto, documenti, non so qua se puoi scrivere nemmeno messaggi di testo, ma qua sapremo, così non mi fa vedere solo... No, se premo quell'iconcina del messaggino, della... ecco, type a message, messaggio di prova di... mando una fesseria, vabbè che poi, mamma mia, quando scrive sulla tastiera fai prima a parlare, il bello di gel è quello. Anche io te l'ho mandato uno, hai visto? Aspetta, com'è sto storico, mamma mia? Aspetta che qua non capisco bene com'è, non lo vedo, aspetta che sto da qui, lo rimetto qua, vediamo se c'è l'antifica, che pasticcio. Guarda che aspetta rosso sopra. No, ma ero ancora nell'area storico o messaggi. Io ho mandato, vediamo. Guarda che c'è, aspetta rosso sopra. Ma ho premuto di nuovo, è un po' pasticcione, insomma, da. Peraltro ho visto che ci sono dei microfoni PTT proprio per smartphone con il cordone spiralato approvati da Zello, magari si spera di qualità migliore, ci sono sia con cavo spiralato che addirittura Bluetooth, proprio per usare il microfono PTT. Eccola, è arrivata la notifica, vediamo. Sì, prova SMS, letto. Quindi vedi che funziona e niente, se non fosse per questa latenza che è un pochettino scocciante, magari sarebbe eccellente, ma non tutto si può. Infatti mi dice qualità di connessione eccellente, anche se secondo me sono 185 millisecondi. E qua 164, sì, eccellente, poi vabbè, chissà che giri fa per arrivare da me a te. Dunque, io sto usando una connessione o mobile, rispetto alle altre connessioni solite vedo IP strani, con numeri piccoli all'inizio, tipo 5, punto, eccetera, eccetera. Ah beh, quello dipende dalla rete, sicurezza che c'è. Io sto utilizzando un wifi collegato alla rete generale, di wifi ne abbiamo 3 qua, quindi ci sono 3 trasmettitori che radiano più o meno in tutta la zona. Quindi puoi uscire anche fuori, camminare, eccetera, eccetera. Allora, stavo tentando di mandare la mia location, però qua sta girando acquiring location, sicuramente attiva il GPS che però dentro casa giustamente non prende. Dovrei affacciarmi alla finestra, ma... non lo so, quando vede solo 3 satelliti, 2 o 3, non fa bene la triangolazione, dai. Ma siamo qui per sperimentare, d'altronde no. Sì, non puoi pretendere, ad esempio tutte quelle radio che hai visto, quelle hanno GPS, però essendo ad alto livello, devi vedere come prende, esci fuori e subito, ting! Che appaiono le coordinate, ma d'altronde è il loro dovere farlo, perché sono per fare quello. Oh Giaffra, mi posso avvicinare alla finestra e vedere se becco almeno 3 satelliti per avere un'approssimazione accettabile di 10 metri almeno, dai. Prova. Vediamo anche se riesco, presumo che mi apra le mappe per vedere se è giusta, dai, vediamo lo storico. Ci sto provando, vediamo, sì, ma la data è esattamente dove tu. Aspetta che voglio vedere se è veramente quella però. Allora, mi ha aperto velocemente delle mappe che non mi sembrano quelle di... Non mi sembra Google Maps queste, boh, forse è una cosa integrata. Aspetta che ingrandisco. mi levasse questa targhetta da davanti. Diciamo è andato un po' verso via Gabino Mazza, un po' troppo verso via Gabino Mazza, ma la zona è quella. Mi. Sì, ho notato. Ho notato anch'io. Allora, se tu vedi la location, no? O ci siamo? Non riesco bene. Se mi togliesse questa targhetta da davanti, porca miseria. Ah no, aspetta che me la fa aprire cliccando sopra con le mappe, le vere mappe. Vediamo se c'è anche una differenza tra quella mappa data lì, che magari è integrata in quel sistema. Spengo anche il GPS perché sono dentro casa adesso. Ok. Quindi qua mi dice la latitudine, vedo, però non mi sta aprendo le mappe, mamma mia, perciò ho detto voglio uno smartphone più aggiornato. Allora io ne avevo due, entrambi. Di classe media, vorrei prendere una classe tipo Huawei P-Smart Plus 464, cioè 4 di RAM, 64 di coso. Dimmi pure. Allora, vediamo qua, però non mi fa vedere la freccina, cioè mi apre la mappa. Allora, vedendo la forma del palazzo, vabbè, avrò sbagliato di 10 metri, dai. 10-15 metri, comunque bene o male ci siamo, dai. Va bene, anche quella funziona. Se ti buttiamo una bomba ti prendiamo lo stesso. Mi si è caduto di nuovo di connessione, ma non so se dipende da me, perché qua ogni tanto. Caspita, qualità di connessione media, ritardo 784 millisecondi, ma sono quasi fermo, non ho capito perché. Uffa. Qua c'è HPU, tutte le tacche del cellulare, qua sotto me ne dice. Boh. Perché dipende dalla cella a cui sei collegato, quando c'è molta gente navigando, facendo tutte quelle cose, e ovviamente la cella è a diminuisce la velocità, capito? Ehi, è interessante. Comunque io mi ero fatto. Aspetta, come mai sale così? Ah no, perché questo è l'altro. Ti volevo dire, avevo due smartphone, no, uno era il mio, comprato a giugno del 2015, in realtà era uscito nel 2014, quindi già era vecchio di circa un anno. Poi mamma se n'era preso uno, il G610, Huawei G610, che era uscito a fine 2013, no, però siccome non lo sapevo usare proprio, non. Cioè, mamma della serie non sa leggere i messaggi di un cellularino a tasti, quindi. Lasciato fermo mesi, ho preso io e ci avevo messo in uno la scheda O Mobile e nell'altro la scheda Iliad, che adesso ce l'ho ferma, perché detto tra noi urge uno smartphone più aggiornato, qua è un giga di RAM che cominciano a stare molto stretti, 4 giga di memoria altrettanto stretti. Poi nonostante l'espansione della micro SD, qua quando vado a installare roba grossa mi dice sempre memoria non disponibile, ho cancellato la cache, ho cancellato tutto il cancellabile che non siano applicazioni, quelle vabbè servono, le poche che ho, vabbè, perché no, anche Asus, perché no? Poi non so se sia un medio alto di fascia, io budget 300 euro, non di più, forse anche 250. Io a parte che, vabbè, quello aveva ormai 4 anni, è partito, il G610 ha cominciato a fare riavvia all'infinito, come si chiama? Boot, com'era? Loop, non so, riavvi continui, si avviava, pochi secondi si riavviava, e così nei secoli dei secoli. No? Ormai varrà 50 euro, cioè la riparazione ti costerà più dell'apparecchio stesso, no? Preferisco mettere da parte e prendere qualcosa del genere. Ma io giusto per caso ho buttato l'occhio al P-Smart perché mia zia ha preso poco prima di partire per il mio intervento, ha preso una Huawei P-Smart normale, che era 3,32, 3 giga 32 di memoria. Subito dopo, nemmeno due mesi dopo, è uscito il P-Smart Plus con più batteria, appena appena più di processore, Android Oreo 8.1, EMUI forse 8.2, boh. E io poco me ne intendo anche di queste. Mi dovresti spiegare a cosa serve questa USB Type-C, che può essere o 2.0 o 3.1, a quanto ho capito. Non so se ha invio dati in tutte e due le direzioni, poi non lo so. Dimmi. Ah, mi si è chiusa l'applicazione. Ogni tanto vedo che... Eccola qua. Ma pure siete anche disconnesso, che cavolo. Gianfra, devo scappare in bagno, me la sto facendo addosso. E io devo andare a cena, che sennò qua non si mangia. Ciao, dai, ci sentiamo domani. Sì, ok. Comunque, vabbè, funziona. Hanno aggiunto qualcosina rispetto a anni fa, dai, buona cena. Il problema è che poi non tanto va a entrare a nessuno. Te l'ho detto, un po' gli utenti anche delle baracchine non hanno certa età, quindi non hanno dimestichezza un po' con queste applicazioni, eccetera. E vabbè, poi per il resto te lo dico domani. C'è un'applicazione molto simile a... con le stesse funzioni di WhatsApp, ma dice interamente cifrato con algoritmi forti, dice, sia l'audio, sia le telefonate, sia le videochiamate, sia i file singoli che mandi. Mi pare si chiami Signal l'applicazione ed è una open source. Mai sentita? Sì, ma no, no. Va bene questo, dai, così sporco con anche altra roba, in tutt'uno, senza intasare la memoria. Comunque io lo lascio in stand-by l'altro, e quindi quando vuoi chiamare è sempre lì, che dura la batteria, cioè, puoi chiamare in qualunque momento, tanto non consuma neanche dati, capito? Ehi, ti mando una foto di quando sono sul gabinetto. No, non mandare quella roba, non mi chiama a fare. Ok, vabbè, comunque adesso spengo qua e tengo acceso di lì. Se non ti rispondo vuol dire che sto mangiando comunque.